Buonasera, buona domenica e vi ritrovate sulle Stockmore Rock. Come avevo come avevo detto in settimana, domenica di intervista, e vado direttamente ad introdurlo, che così mi tolgo dal classico impasse iniziale, in modo da andare ad introdurre appunto chi ho qui in intervista qui con me, reduce da un release party di ieri sera, quindi grazie della disponibilità all'ultimo minuto e comunque della disponibilità appunto per questa intervista, che magari poteva essere un discorso di un giorno di tranquillità, e invece passerei questa oretta con me. Membro onorario praticamente di Bologna, perché come l'ho visto spesso qui a Bologna, non solo per i concerti di placcaggio, ma anche al di fuori dei concerti di placcaggio. Quindi, detto questo, è qui con me Gabriele, appunto, di placcaggio. Ciao Gabriele, come va? Ciao a tutti, tutto bene? Come stai, Danilo? No, non c'è male, un po' infreddolito sinceramente, perché io mi sono già stufato di questo freddo, perché non ne posso più, io sono più per il caldo, però per il resto non c'è male. Tutto bene, dato questa seratona di ieri sera? Sì, un po' sbociato come immaginerai, però la serata è andata bene, quindi siamo tutti molto contenti e ci siamo anche tolti questo dente della presentazione del disco, che ci teneva un po' sulle spine, no? Sti giorni. Ah, ci credo, non so per quale motivo, penso che sia un po' per tutte le band. Non dico ricominciare, però andare in tour con un disco nuovo, pezzi nuovi che si provano ovviamente in saletta tantissime volte, riproporre da live, c'è sempre questa prima volta che è un po' così, non si sa mai come può andare. Sì, perché a parte, vabbè, non sai bene come i pezzi verranno poi accolti, in più diciamo che una volta che inizi a farli davanti a terzi e non nel buio della saletta solo tra di noi, sicuramente cambiano tante cose, cambia la percezione tua del pezzo, cambia come lo interpreti, insomma sicuramente è un banco di prova importante riproporli poi in sede live, ecco. Dai, va bene, l'importante è che sia andata bene, come mi dicevi, un'oretta e mezza più del dovuto rispetto a quello che magari eravate previsto. Sì, no, in realtà avevamo fatto una scaletta lunghissima, poi durante il pomeriggio dice no, regà, ma cioè, è impossibile che suoniamo tutto sto tempo, leviamo qualcosa, poi in realtà ci hanno detto no, ma tranquilli, fino a l'una si può suonare, quindi abbiamo reintegrato tutti i pezzi che avevamo tolto e è andata molto per le lunghe, però sinceramente non ce ne siamo neanche accorti, siamo arrivati a fine scaletta che eravamo ancora lì, che volendo potevamo suonare anche un'altra mezz'ora. Ah vabbè, allora dai, meglio di così. Tanto meglio. Prima di passare a parlare appunto del settimo album, se non ho sbagliato i conti, giusto? Dibattuto, nel senso che noi consideriamo la demo parte della discografia, quindi teoricamente sarebbe il settimo in effetti, però ufficiale è il sesto, cioè sono sei più il demo. Ah ok, infatti io avevo contato anche il demo, però... Sì, no, ma giustamente, anche per noi, ecco, per noi è il settimo. Ah ok, vabbè, allora avevo fatto i conti giusti. Comunque dicevo, prima di passare a parlare di Cosmo e ascoltarci anche un po' Cosmo, perché è freschissimo, dato che è uscito il 9 di gennaio, quindi fresco di una settimana, anzi due, ho una domanda introduttiva che la volta scorsa, quando ci siamo sentiti di qualche anno fa nel 2022 per il discorso di Verso la Vetta, probabilmente non te l'avevo fatta perché questa notizia non c'era ancora. Sicuramente probabilmente non è la band di riferimento per il placcaggio, però sai sicuramente che NoFX si sono sciolti qualche anno fa. Cosa significano per te NoFX? Diciamo che hanno rappresentato una bella fetta in realtà dei nostri inizi. Quando abbiamo un po' virato verso sonorità punk, sicuramente non erano un gruppetto. Poi vabbè, noi personalmente ci avevamo tutti per dirti, Chris, per lui era un gruppo già consumato da anni, noi invece... quando ci siamo incrociati li sentivamo da qualche anno, ma non tantissimo, però per dire è una delle band storiche punk che non ho mai visto live, questo sì, no, non mi è mai capitato. Ah ok. Però per noi, anzi tra l'altro non so se ti ricordi, quei 666 ogni tanto c'era anche qualche citazioncina dei NoFX, quindi non è che stanno nella fascia dei gruppi. No, no, quello sicuramente no, però dico ovviamente rispetto magari a quello che si va a proporre un po' con il placcaggio, non è magari la band appunto questo punk metal hardcore oi, no, come vi definivate qualche tempo fa o comunque anche tuttora sinceramente. Buono a sapersi. Ed eccoci qua, come dicevo, risolto anche un attimo il discorso della diretta di Instagram, quindi per chi volesse seguire anche quella diretta può farlo, perché ci sono delle parti ovviamente che per la radio non passeranno, perché siamo in collegamento costante con questo. Quindi andando a parlare effettivamente del sesto album ufficiale con la demo. Adesso non c'entra nulla, però EP c'era qualcosa, avevate fatto qualche split, ma EP c'era? Sì, ci sta sicuramente quello Cantina del Goio, che sarà del 2014 se non erro, e ce n'è un altro split con gli ultimi, c'è un singolo con la cover dei Dream Theater di Pull Me Under. E ci sono almeno 3 EP insomma in tutto questo tragitto di album vari. Dai. Quindi qualche extra ci sta, online si trova tutto. Sì, esatto. Intendo anche i formati veri, non online che te lo senti, proprio se trovate i dischi da qualche parte, qualcuno ce l'ha. Sì, bene o male. Allora, per chi è qua di Bologna, l'El Nation, bene o male, ha una bella scorta di quello che riguarda il placcaggio, perché tra stampe ufficiali e ristampe, perché esatto, magari... Esatto. C'era qualcosa che ai tempi non era saltato fuori come si doveva, per modo di dire, per solo CD o solo vinile, quindi c'è stato il remaster per quello, per quanto si riguardava. Per il resto d'Italia andatevi a beccare in giro per l'Italia, perché adesso sicuramente partiranno per il discorso del tour di Cosmo, dopo ne andiamo a parlare, quindi ti vado a chiedere anche dopo più tardi come, se avete già qualche data confermata oltre quella di Partirò per Bologna, qui a Bologna appunto. Ma parlando un attimo del disco, te l'avevo un attimo accennato e che te l'avrei chiesto appunto per questo discorso di questo primo singolo un po' fuori dal coro, quello un po' più soft rispetto a quello che avete sempre proposto con punk hardcore metal oi, come vi definisco sinceramente, perché c'è un bel misto di quello che di questi generi. Primo, come è saltato fuori appunto questo singolone un po' più tranquillo, e cos'è l'Abaro? O l'Abaro? Allora, no, fondamentalmente... ho detto prima l'Abaro. L'Abaro, vai. L'Abaro, vabbè, sta per insegna, insomma, è quella bandiera tipica del battaglione che si portano davanti alle prime file. No, in realtà il pezzo è la scelta più che altro di fare uscire il pezzo è inusuale sicuramente per noi, perché di media abbiamo sempre fatto uscire il pezzo più violento per primo e poi andavamo a degradare, anche se in realtà in fondo su tutti i dischi, se uno scava bene, la canzone numero 5 è sempre quella della chiamiamola ballata, ma noi le ballate non le facciamo, però quella un po' più tranquilla. Il problema è che mai era uscita come apripista del disco, quindi chiaramente tutti quanti ci hanno detto: ma come, che mucca avete fatto, avete cambiato genere? Perché cioè in realtà, se senti, che ne so, Rivolta, cioè stringi anche quella, è un po' una ballatona, sono i pezzi più tranquilli, o il valico su Approdo e così via, diciamo. Quindi c'era anche il vascello su Zigura, cioè la canzone 5 è sempre stata dedicata al relax del disco, però stavolta abbiamo deciso di fare: senti, invece di tanto poi si aspetteranno tutti la mazzata, proviamo a stupire in senso inverso, così quando poi esce il disco dico: ah no, ma c'è sempre i placcaggi, non hanno cambiato genere, hanno solo invertito l'ordine dei pezzi col quale far uscire il disco, tutto qua. Questa è la spiegazione, però ci tenevamo molto al testo del pezzo, quindi abbiamo deciso di uscire con questa qui come primo pezzo, e poi è uscito tutto il resto del disco, quindi in realtà era solo una canzone prima dell'uscita ufficiale di tutto quanto sui varie piattaforme digitali. Dai, ok, buono per la spiegazione, perché effettivamente allora, a parte questa costante di il brano 5 deve essere quella soft, quindi che va a spezzare un po' il disco sostanzialmente, dici ok, rilassati un attimo e poi dopo portiamo quelle altre mazzate. Ci sta effettivamente. Esatto. Ci sta effettivamente. Però bella anche la spiegazione: stravolgiamo tutto, non diamo la mazzata, partiamo così. Sono arrivati più commenti sostanzialmente rispetto a quello che era verso gli album precedenti. Perché dici: butti fuori subito la soft, per modo di dire, e poi dopo ascoltando tutto il disco dici ah ok, sono sempre loro, come ovviamente dicevi tu. Va bene, buono, buono a sapersi. Grazie anche per la spiegazione di Labaro, no Labaro, sì. Qua dalle parti di Roma sul Labaro dicono tutti che insomma è una città manco sarà comune verso Roma Nord, quindi tutti dicono avete fatto la canzone sul Labaro, e c'è anche l'Amaro, ce ne stanno tanti che si chiamano similari, quindi cioè, tutti hanno confuso tutto come sempre. Fantastico. E anzi il nostro chitarrista è stato il primo a dire guarda che se la chiamiamo così poi ci dicono tutti che è dedicata al Labaro di Roma, e quindi cioè, si crea, senti Vale, tanto ognuno dirà qualsiasi cosa, tanto vale che lasciamo il titolo così com'è, quindi l'abbiamo lasciata intatta come era stata pensata. Dai, ci sta effettivamente, perché tanto un modo per poter dire qualcosa la gente lo trova sempre, quindi tanto vale dargli direttamente lo spunto, e comunque eravate già abbastanza informati su quello che poteva succedere ed effettivamente come dicevi tu è successo. Continuando, anzi andandoci dopo questa super infarinata di questa spiegazione di come è saltato fuori il brano e per quale motivo appunto questo stravolgimento rispetto a quello solito, ci andiamo a per chi non l'avesse ancora fatto, ci andiamo a ascoltare un brano di Placcaggio che dà il titolo dal titolo all'album, Cosmo. E hai qualcosa, vuoi dirmi qualcosa anche di qua per quanto riguarda Cosmo prima di lanciarlo? Sì, vabbè, di Cosmo ti posso dire che essendo il sesto disco, mo dobbiamo far verso a tutta la discografia degli Iron Maiden, quindi se Ziggurat era Power Slave, questo è Somewhere in Time, se tanto mi dà tanto il settimo disco sarà Seven Son of a Seven Son, quindi è un concept tanto quanto Somewhere in Time in salsa provinciale, ovviamente, anche perché Colleferro è città dello spazio, quindi non potevamo esimerci dal dedicare un disco a questa... a, diciamo, peculiarità della nostra città. Ah, ok. Allora, ovviamente il discorso di come è stato fuori Cosmo ce l'avevo. Tieni un attimo da parte che magari ne parliamo un attimino dopo. E rientriamo in diretta per quasi a conclusione della prima parte di Let's Talk More Rock. Intanto è arrivato tramite la diretta di Instagram un messaggio che ti vado a leggere. Ciao, avrei una domanda. Il vostro cambio etichetta ha influito sulla composizione dei brani e sulla produzione del disco? Grazie mille, Andrea. Allora, no, allora, a parte che è impossibile perché il disco va almeno tre brani che sono stati scritti minimo 10 anni fa, nel senso che poi noi, per la storia che non si butta mai niente, abbiamo tutta una serie di brani sia di gruppi vecchi sempre miei e di pezzi che magari uno scrive, poi li rifà da capo perché non ti piacciono, poi ci cambi una cosa e invece a quel punto ti convincono. Quindi, diciamo, la genesi del disco è data fra tre pezzi di recupero e tutto il resto fatto nuovo dal 2022 al 2024, quindi poi in realtà praticamente il disco, quando abbiamo fatto il cambio etichetta, era già finito, cioè, ma in realtà il cambio etichetta è stato relativo, è stato un cambio etichetta necessario perché non abbiamo proprio più tempo materiale, lavoro e tutto quanto di stare dietro, cioè, nel senso, sì, abbiamo tempo di starci dietro ai Placcaggio, ma è diventato un po' troppo grande il tempo da dedicare, quindi abbiamo preferito avere insomma qualcuno che almeno ci segue la parte dell'organizzazione dei live e la stampa del disco, quindi insomma tutta un po' la parte comunicazione, quella purtroppo noi non siamo proprio bravi a usare l'internet, quindi ci serve una mano. E no, in realtà no, poi siamo andati con Motor City, che comunque è un'etichetta di amici, quindi è stato tutto abbastanza tranquillo, no, assolutamente no, il disco appunto era già bello che fatto, l'abbiamo registrato a inizio anno scorso e i pezzi erano pronti, diciamo è stato veloce, la creazione del disco in sala è stata velocissima, a differenza degli altri ci abbiamo messo 3-4 mesi, non di più, perché i pezzi erano già tutti finiti, praticamente sono arrivato in sala quei pezzi abbozzati e poi come sempre, come tutte le volte, li abbiamo rigenerati tutti insieme poi in sala e quindi è stato tutto molto, molto veloce, concreto. Poi lo sai, i ragazzi con i quali suonano sono tutti uno più bravo dell'altro, quindi con loro ci vuole poco in sala, diciamo, a farti venire ulteriori idee dal diciamo la base che uno porta, che è molto molto diciamo, in ossatura proprio giusto di partenza, poi si sviluppa tutto in saletta il processo, quindi direi proprio di no. Anzi, abbiamo seguito come al solito tutti i nostri dettami che ci diamo, e come ti ho spiegato prima, il quinto pezzo, la ballad, il primo pezzo, quello diciamo che rappresenta il disco, cioè è tutto sempre a tema, perché venendo noi dal mondo del metal stiamo un po' in fissa con queste autoregole che ci dettiamo. Vai, mai distruggere il flusso, per modo di dire, no? Tutto è andato, esatto, bene fino adesso, lasciamo così, la balla dalla 5 e quant'altro. Buono, interessante. Come c'era una battuta, ovviamente sapendo, cioè, sapendo che voi avete due bassisti sostanzialmente, che in base a chi riesce, tutte si riescono tutte e due, ovviamente ci sono tutte e due, però si intercambiano il discorso della presenza sul palco. C'era questa battuta che era saltata fuori, che avevate fatto sulla pagina di Instagram, dove praticamente, adesso non mi ricordo chi, aveva fatto tutto il tabulato tutto sul pentagramma con tutte le note, e dall'altra parte c'era tutte A, B, C, tutti i numeretti, no? Proprio. E della esatto. serie. Schernendo quello bravo, perché se l'ha fatto tutto il esatto. Mo tu che sei, vuoi fare l'intellettuale, sti cazzi, mo te ne torni a casa a piedi. Guarda, io mi sono pisciato le risate in quell'occasione, perché era un post bellissimo. Adesso andatevelo a vedere, se non l'avete cancellato, immagino di no, però si parla di qualche anno no, fa. No, quindi sta online. C'è, quindi quello andatevelo a vedere, perché è un siparietto molto interessante. Dicevo, 333 180 94 94, se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp per qualche domanda o anche semplicemente un saluto, lo può fare, perché ho il tablet qui davanti, se non mi perdo delle domande. Anzi, scusami Andrea, che qualche puntata fa in qualche intervista aveva scritto sul tablet, ma chiedo venia, mi sono sbagliato io a quanto pare, perché non ho visto il messaggio. Ma prima di andare a parlare nella seconda parte di quante date avete già confermate, come dicevo, a parte quella di Bologna, qui del Partirò per Bologna all'Estragon, seconda parte di Lestormo Rock, sono sempre collegato qui con Gabriele del Placcaggio a parlare un po' di Cosmo e ascoltarci Cosmo, sesto album della band di Colleferro. Avevi un attimo, ti avevo un attimo accennato per il discorso delle date, oltre a quella dell'Estragon qui di marzo, di Partirò per Bologna, c'è qualche altra data che avete confermato? Sì, qualcosa di confermato già ci sta. E allora, il giorno prima dell'Estragon saremo a Treviso, a Roncade per la precisione, quindi facciamo venerdì a Roncade con i Bull Brigade che presentano il disco nuovo, e poi il giorno dopo scendiamo e facciamo Bologna, mentre il weekend successivo c'è una tripletta che parte da Torino e finisce a Pietrasanta, quindi abbiamo quei due weekend attaccati. Poi aprile sicuramente torniamo anche su Roma e faremo qualcosa per il 25 aprile, sia diciamo credo sia quei 666 che quei Placcaggio che abbiamo un attimo, e poi il primo maggio saremo invece in Svizzera. Questo è un po' il programma a stretto giro di date confermate. Ah, ok, ma in Svizzera dove? Perché adesso non so se avete nella parte italiana. Sì. E quindi adesso mi collego, non ci avevo pensato, ma all'estero c'è tipo Germania o qualche parte, non mi ricordo se avete già suonato. Ci abbiamo già suonato, però penso che le date estere sarà roba dell'anno prossimo. Quest'anno penso faremo intanto tutta l'Italia e poi vediamo l'anno prossimo se ci sarà qualche festival, qualche giretto da fare. Poi noi il problema è sempre che più di tot date attaccate fuori non le possiamo fare per motivi lavorativi, quindi dobbiamo sempre capire se troviamo un posto dove ha senso fare una data fuori, però toccata e fuga, che è sempre un po' più complicato di magari paradossalmente organizzarne 4-5 è più facile itineranti che una andata e ritorno con l'aereo, ecco. Ah beh sì, ovviamente dopo c'è anche quel discorso lì. A sto punto, dato che ho tirato fuori un attimo il discorso, brevemente un po' com'è il Placcaggio all'estero? Ma in realtà a livello musicale c'è stata una grande accoglienza quando siamo stati all'estero, anche perché la formula ha un buon impatto, diciamo così, a prescindere dalla questione linguistica, che potrebbe essere in realtà abbastanza dirimente, no? E quindi i riscontri sono stati buoni, vero anche che però la barriera linguistica magari proprio sull'ascoltato da casa, diciamo così, è più difficile da superare, quindi bisogna sempre capire, insomma, chi è interessato a organizzare cosa, a che condizioni. E c'è un conto è prenderci e metterci su un palco con altri gruppi, le persone stanno già lì, suona e fa tutto bene. Un conto è suoniamo spot, chi viene, cioè, è sempre un po' quello il problema. Certo, esatto. Dici, fai la giornata secca, dici, oddio, se ne fai già un, no, po', un pochino di più, magari. Sì, no, uno dovrebbe essere magari pure più. Si fa farsi una settimana, insomma, in posti dove comunque le persone già frequentano il posto, e poi a mano magari c'è un riscontro maggiore, non lo so, però diciamo poi alla fine l'importante è suonare, non è che uno sta a guardare particolarmente queste cose, però c'è sempre bisogno di qualcuno che ci chiami, fondamentalmente. Dici, alla fine sì, alla fine il miglior sostegno comunque è quello, la chiamata che possa essere italiano o dall'estero per poter fare appunto questi vari concerti. Parlavi prima del discorso di Colleferro con la con il discorso della una città del cosmo, appunto, che c'entrava il discorso del titolo, no? Sì, perché qui diciamo le fabbriche di zona contribuiscono a tutti i lanci in orbita dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi diciamo la barzelletta di per sé è che Colleferro è città dello spazio, perché ci stanno le fabbriche dei razzi, e quindi c'è un sacco di nostri amici partono, vanno in Guyana francese dove ci sono le piattaforme, e quindi c'è tutto questo avanti e indietro di persone a noi vicine che lavorano nel campo, e quindi poi tra le varie cose Colleferro è stata insignita di questo titolo negli anni passati per il contributo che ha dato a questo campo, quindi ci sembrava insomma il minimo fare un disco a tema spazio, che magari poteva sembrare di per dire una cosa buttata a caso, no? Cioè, vabbè, stavolta fanno il disco sullo spazio, cioè non è a caso, ma è sempre legato comunque alla quotidianità che viviamo, non è una formula trovata così per passatempo. Ok, quindi è correlata la cosa. Infatti, ovviamente, avendo un attimo accennato tu il discorso Colleferro per la città dello spazio, ho detto sicuramente sarà collegata appunto con il disco, ed effettivamente, come mi hai confermato tu, è così. Buono a sapersi, domanda azzeccata, per modo di dire, come così, esatto, così pur parlé. E ci andiamo ad ascoltare un altro brano dei Placcaggio, Spada. Hai qualcosa da aggiungerci? Sì, perché Spada, per dire, per chi ci ha seguito proprio quelli proprio fissati, era uscito in realtà una sorta di versione, chiamiamola grezza, con gli Iron Hill, che eravamo sempre noi, non cambia nulla, cioè, però con un testo in inglese, era un altro gruppo che avevamo fatto per fare una sorta di punk più stradaiolo, non in italiano, però dato che poi Chris è partito, è andato a Milano, non siamo riusciti a tenerlo il progetto, cioè un conto sui Placcaggio che magari a distanza ci riesci, però avere pure più gruppi, side project a distanza diventava ingestibile, quindi ho recuperato un po' appunto quei pezzi che avevo scritto per gli Iron Hill, li abbiamo rifatti come li avrebbero scritti Placcaggio, tutto qua, quindi è stato tutto abbastanza naturale, li abbiamo un po' ricreati in sala e il risultato è quello che sentirete. E rientriamo sempre a parlare con Gabriele per quanto riguarda il nuovo album Cosmo, dobbiamo snocciolato veramente veramente tanto, da dove arriva e quant'altro, quindi banalmente ti vado un attimo a chiedere, la copertina è stata pensata in modo del titolo, ovviamente, perché si azzecca totalmente su quello. Sì, no, assolutamente. Allora, la copertina l'ha fatta il nostro amico Riccardo Parenti, che ci ha fatto tutte le copertine di tutti i dischi, quindi in realtà è una roba ormai una collaborazione storica, la facciamo sempre fare a lui, che insomma fa il grafico, quindi sin dall'inizio ci ha aiutato proprio dal nemico. Guarda, tranne la copertina della demo, quella là, grandissimo download da Google, penso, e messa su Paint e scritto sotto in Impact Placcaggio Hardcore Liar, a parte quella il resto le ha fatte tutte Riccardo, assolutamente. L'altra l'avevo fatta io con Paint, veramente utilissimo, tipo scarica Placcaggio partita 6 nazioni, questa è stata la genesi così intellettuale della copertina della demo. Invece questa è stata pensata insieme con noi, ci siamo sentiti, abbiamo fatto svariate call, lui vive in Giappone, quindi ci siamo sentiti anche con lui a distanza e ha tirato fuori questo artwork che poi Federica ci ha, diciamo, messo sul disco, ci ha fatto la parte proprio di trasposizione dalla grafica pura all'impaginazione, ecco. Fantastico, è molto bella in realtà anche la copertina. C'è un Enrico Caporilli che ha scritto Rupert, non so se magari riferito a te sai qualcosa. È il gatto. Ah, è il gattone. Ok, allora, sappiamo anche lui. È come quello di il pupazzetto di Brian. Cioè, no, di Stewie, sì. Dei Griffin. Stewie dei Griffin, sì. L'hai preso da lì? O non c'è? No, io l'avevo messo per Rupert Everett. Ah, Rupert Everett. Ah, ok, l'altra, vabbè, ovviamente quello è un po' più conosciuto rispetto che ai Griffin. Però perché sì. Sono un sacco amante dei Griffin, per quello. Quando ho letto Rupert ho detto, boh, magari è un suo amico che gli chiede due robe. No, va bene. Piccolo off topic, riguardando un attimo il merch, c'è la maglia con la copertina perché è stupenda? Per una volta abbiamo fatto la maglia come fanno i gruppi metal, la maglia con la copertina quadrata, quella proprio ufficiale. Il pataccone, no? Bellissimo. Il pataccone con la copertina, tipo come se metti The Number of the Beast, questa maglia di Iron Maiden con la copertina del disco e basta, cioè non modifica, cioè rifatta ovviamente per la maglia, però è la copertina assolutamente. No, fantastico, buono a sapersi, perché quello, un pensierino su anche sulla maglietta ce l'avevo fatto, perché ho detto era veramente bella. E allora, il discorso copertina abbiamo fatto. E, allora, oltre al discorso che, come mi dicevi tu, che ci sono un sacco di brani al di fuori del tra vari progetti e quant'altro, e nello specifico di questo album, che sono 10 brani se non mi ricordo male. Sì, 10. C'era qualcosa che all'ultimo dici, vabbè raga, togliamola perché non ce la facciamo, ci spendiamo un altro po' più di tempo per poterla sistemare, oppure questo è quello che avete scarnificato da quello vecchio, buttandoci la roba? No, abbiamo settato già all'inizio che dovevano essere 10 pezzi e 10 sono stati, tra l'altro uno è la riproposizione di Granito che stava già su Fronte del Sacco, però essendo passati 20 anni era ora di dargli tra virgolette una riregistrata col sound attuale, con la formazione attuale, quindi almeno un pezzo volevamo rifarlo per non perdere il legame, insomma, col passato, quindi l'abbiamo riregistrata come la suoniamo adesso live. E quindi i pezzi tra virgolette nuovi sono 9, e una è un giochetto che si chiama Tornado, che è un nuovo concetto, cioè nel senso, uno dice Tornado, che cover è? Sarebbe la cover di Tornado Source dei Megadeth, ma in realtà non è la cover, abbiamo preso i riff, li abbiamo un po' scambiati, cioè abbiamo creato dei riff similari, anzi invertiti, se proprio ti devo dire la verità, li abbiamo suonata tipo al contrario, e quindi è uscito fuori un pezzo originale. E poi però ci sono dei mock-up con parti di assolo originale miste a parti di assolo che ha scritto completamente nuove Valerio, cioè è stato un po' un gioco per divertirci noi, tipo proviamo a fare il pezzo come se in realtà non è una cover, come se noi stiamo nei loro panni che devono scrivere il pezzo. Quando è uscito Rust in Peace abbiamo provato a fare questo gioco qua, e quindi è un pezzo comunque originale anche quello, in realtà non è una cover. Ok, no, figata, è come quando, è tipo come quando ascolti certi dischi al contrario, no? Che c'era il discorso, ah, si sentono le voci di Satana, e invece vuol dire... Esatto. Ah, no, fantastico. Noi abbiamo pensato di mettere, cioè diciamo, in pratica questa cosa, però suonandolo direttamente, cioè non riproducendolo, ma suonandolo al contrario. Esatto, se direttamente suonandolo al contrario vediamo cosa salta fuori, però alla fine suona, esatto. suona comunque bene, perché se è un pezzo che è saltato fuori giustamente sul disco, se no... No, poi è bello perché conserva il mood del pezzo originale, cioè gli stacchi tipo sono identici, però le note sono completamente diverse. Belli questi retroscena, perché ovviamente, come dicevo, parlandone saltano fuori questi retroscena che mi fanno sempre un sacco piacere poterli conoscere e magari far ascoltare a chi ascolta effettivamente il Placcaggio da diversi anni. Io ti interrompo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un attimo un altro brano, tanto quell'ultimo di Labaro, ce la devo fare. Ci andiamo ad ascoltare alla fine, ed eccoci qua per l'ultima decina di minuti scarsi, sempre in compagnia di Gabriele, parlando, abbiamo parlato un sacco di Cosmo, il loro sesto album, che è uscito, come dicevo, qualche settimana fa, il 9 di gennaio per la precisione. dato che sono saltati fuori un sacco di aneddoti, un sacco di retroscena per quanto riguarda il nuovo album e quant'altro, c'è qualcosa, c'è qualcos'altro, qualche altro piccolo aneddoto che ti viene in mente da poter dire, qualche siparetto simpatico? No, io guarda, la cosa del disco nuovo è sempre legata, qualsiasi cosa è legata al nostro ufficiale registratore di disco, Marco Cinghio Mastrobuono, che ci fa sempre passare una mesata in divertimento presso il suo studio, che insomma lì è un po' l'apice del relax, no? Che vai lì, dici quello che ti pare, registri, parli di musica tutto il tempo, di tutte le nostre idee pazze. E lui devo dire che ci ha sempre assecondato, anzi diciamo la verità che tanti riff che stanno sul disco, ogni tanto lui prende la chitarra e dice no regà, qua ci sta bene sta cosa, si inventa tipo i riffetti e noi glieli famo lasciare. Quindi il concetto nostro è sempre che alla fine il disco che esce è sempre il prodotto di tante idee messe insieme, quindi noi abbiamo sempre lavorato come collettivo, non è tanto un gruppo, capito, che ha un'identità legata a quelle persone e basta, ma è molto molto largo come concetto, ecco. Dai, ok, e quindi praticamente fate un album per andarvi a divertire giù da Marco sostanzialmente. Sì, che si è spostato a Guidonia, quindi mo ci ha fatto pure scoprire Guidonia Montecelio. Un'altra zona che mi mancava, vabbè dai. È sempre faremo una canzone pure su Guidonia Montecelio. Oramai, è certo, cioè, che va, il trasporto da com'era come adesso la situazione appunto per la registrazione. Io come ti dicevo sono quasi un attimo, anzi sono praticamente addirittura d'arrivo prima di andarci ad ascoltare Labaro, no, niente, non ce la faccio, niente, basta, mollata così e fine. A conclusione della puntata ti vado semplicemente a chiedere, c'è qualcosa, nonostante abbiamo parlato effettivamente di tanto, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? Allora, francamente cosa dire, che questo 2026 segnerà l'inizio di altre 7.000 date, il nostro obiettivo è che dobbiamo superare il totale delle date di Verso la Vetta, quindi dovremmo arrivare almeno a 88 se non erro, perché l'ultimo tour è costato di 87 date, qua diciamo l'obiettivo arriva a 100, ecco, dichiariamo questa cosa, quindi il progetto prevede 100 date, vedremo. Ah vabbè dai, è sempre una in più rispetto a quell'anno precedente, quindi avete alzato l'asticella un pochino di più rispetto a quello che era l'anno scorso, però ci sta dai, giusto. Esatto, speriamo bene. Dai, buono a sapersi, quindi speriamo che riuscirete a spegnere queste 100 candeline per quanto riguarda i vari live di quest'anno. Io come ti dicevo sono arrivato effettivamente in dirittura d'arrivo. Gabriele, ti ringrazio della disponibilità di aver passato quest'ora qui con me e come dico sento grazie come sempre. Grazie a te e ci sentiamo presto. Dai, perfetto. Come di consueto, a fine di Let's Talk More Rock, buon punk rock a tutti.